Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Alcune notizie in questo primo giorno di settimana. La prima ci porta ad Atene, un commento ottimista da parte di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE, sul programma, sul secondo programma di revisione greco. Dice: sono stati fatti progressi sostanziali e per questo ci si può aspettare nel futuro prossimo di essere vicini ad un accordo, alla chiusura di un accordo, anche se, ha detto Dombrovskis, ancora non ho una data e non posso dire se sarà al prossimo Eurogruppo. Insomma, una situazione che sembra preludere a un certo ottimismo appunto sulla possibilità dell'accordo. Dombrovskis ha detto: le cose sono sul binario giusto, molti progressi, raggiungimento, naturalmente in ballo c'è il raggiungimento degli obiettivi del deficit strutturale per il 2017-2018 e sulla delicatissima questione della riforma del mercato del lavoro. Ancora da Bruxelles, l'UE ha lanciato l'operazione Unafora Atalanta nel 2008 e oggi ha sostanzialmente rinnovato quella che è l'operazione antipirateria europea per 2 anni, dunque fino a tutto il 2018. Si tratta del dispiegamento in corso operativo di navi appunto nelle acque toccate dai pirati somali in particolare. Intanto la NATO valuta un proprio coinvolgimento, staremo a vedere. E adesso parliamo invece di una, diciamo, declinazione di Brexit, in particolare per gli studenti e i genitori che per varie ragioni appunto studiano, lavorano all'estero. È da parecchi mesi ormai che vengono sollevati interrogativi circa il futuro, insomma risposte rassicuranti sentiamo in questo servizio. È sempre più accidentata la pratica di divorzio di Londra dall'Unione Europea. Difficile infatti che il negoziato con Bruxelles possa iniziare nel marzo 2017, come previsto dal governo britannico. Ma per ora e per almeno 2 anni, il tempo minimo della trattativa previsto dai trattati europei, studenti e lavoratori possono stare tranquilli. Per gli universitari italiani che hanno già iniziato un percorso oltre Manica e per quelli che si immatricoleranno nel 2017, le tasse universitarie non cambieranno. Al termine dei negoziati, quando il divorzio sarà una realtà, gli italiani che risiedono in Gran Bretagna potrebbero aver bisogno di un permesso di soggiorno, sia che vivano lì da tempo, sia che vi si trasferiscano dopo Brexit. Un possibile modello, dicono gli esperti, potrebbe essere il sistema punti in vigore in Australia, con il datore di lavoro che agisce da sponsor. Non tutto però sarà più complicato. I bambini nati sul suolo britannico da genitori italiani residenti sull'isola hanno diritto al passaporto e alla cittadinanza inglese, purché siano nati dopo il 1 gennaio 1983. E facciano domanda prima che la Brexit diventi effettiva. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, di certo la preoccupazione per decisioni rapide può essere messa da parte almeno per parecchi mesi. È tutto quando sono le 14, 5 minuti e 30 secondi. Adesso, come sempre, naturalmente tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.